Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ancora un saluto da Francesco Galante e soprattutto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. L'argomento di oggi tocca un po' le nostre abitudini, perché parliamo soprattutto di fumo, perché insomma stanno cambiando le regole generali per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, che ha varato delle nuove norme. Sì, parliamo in questo caso delle nuove norme che andranno a regolamentare la vendita dei tabacchi ai minori soprattutto, e andranno a regolamentare quelli che sono dei comportamenti che l'utente dovrà tenere quando guida, e cioè non potrà più pensare di fumare in auto, soprattutto alla presenza di bambini e di donne incinte. Quindi un ragionamento che era ora che finalmente venisse affrontato e che troviamo concorde anche noi, dare uno stretto giro di vita al fine di tutelare la salute, perché oggi ricordiamo che in Italia ci sono oltre 85.000 persone che ogni anno si ammalano di malattie derivate dal fumo, e soprattutto ce ne sono oltre 6 milioni al mondo che ogni anno muoiono per questo vizio. Ecco, quindi intanto dove si può mettiamo una pezza, mi viene da dire, perché poi penso all'inquinamento delle nostre città, che probabilmente non è molto distante dal fumo della sigaretta. Beh, certamente tra fumo e mozziconi non facciamo certamente bella figura neanche in Italia. Comunque, parlando di queste norme, innanzitutto bisogna dire che spariranno i pacchetti da 10, quindi per non agevolare quindi la vendita soprattutto agli ragazzi. Verranno aumentate le sanzioni da 1.000 a 4.000 euro e alla sospensione di 3 mesi della licenza per chi venderà sigarette ai minorenni. I pacchetti si coloreranno di immagini e avvertimenti dove ci saranno forti immagini di quelli che sono i danni causati dal fumo alla salute della persona, coprendo il pacchetto al 65% contro il 30-40% in cui ora i pacchetti si trovano, diciamo, colorati dalle scritte o dagli avvertimenti, e soprattutto verrà addirittura sospesa la licenza per chi sarà recidivo nei confronti di chi venderà, insomma, queste sigarette ai minorenni. Ecco, mi viene... aumentano le sanzioni per chi appunto fuma in auto o fuma in presenza di donne incinte, perché a questo punto bisogna dire che deve diventare un'abitudine per chi ce l'ha, che da dimenticare, e non si potrà fumare neanche in certe aree, anche se qua parliamo di un consiglio che ha appena approvato questa linea guida, ma che andrà a rivedere quali sono i luoghi di fumo all'aperto, come davanti alle scuole o agli ospedali, proprio per evitare anche di dare dei segnali che siano contrastanti o incoraggianti i ragazzi o per chi, insomma, può anche soffrire questi disturbi. Ecco, tu hai parlato di sanzioni per chi vende le sigarette ai minori di 18 anni, mi vengono in mente i distributori automatici, che insomma sono praticamente liberi all'accesso di chiunque. Sono liberi se ci si riesce a procurare una tessera sanitaria di qualcuno che risulta maggiorenne rispetto a chi realmente li compra. Non ho letto ha qualcosa di particolare riguardo i distributori automatici, ma si intende che normalmente uno, prima di poter comprare il pacchetto, debba inserire la tessera sanitaria, quindi deve fare, quindi se non risulta maggiorenne il distributore non dovrebbe cedere le sigarette. Però ecco, per quanto riguarda la tessera, ricordiamo che sono delle linee guida di una legge che speriamo venga definitivamente approvata il prima possibile, quindi parliamo di entro fine anno. Ricordiamo, se pensiamo che qualche decennio fa si poteva fumare dentro i luoghi pubblici tranquillamente o dentro o i treni e negli aerei, oggi insomma già abbiamo fatto, bisogna dire, degli importanti passi rispetto a quella che è un'educazione incentrata al rispetto di chi non fuma e di chi magari potrebbe subire degli effetti per un fumo passivo, e soprattutto ricordiamo i ragazzi e i bambini che sono quelli che persone devono essere maggiormente tutelati, quindi riteniamo che anche queste normative vadano nella giusta direzione. Sì, io mi ricordo per esempio i cinema, si fumava anche dentro al cinema. Sì, una volta era normale andare a mangiare la pizza e uscire dai locali completamente impregnati di fumo, vero, come vedevo anche il cinema. Quindi se pensiamo oggi rispetto a una volta, già dobbiamo ammettere che sono stati fatti dei passi da gigante. Ci capita ancora di vedere vecchi film con queste scene di persone, insomma, che fumano liberamente. In questo senso oggi secondo me continuiamo ad andare in una direzione che doveva essere ripresa e che soprattutto deve anche avere rispetto per chi non fuma, ma anche per quelle categorie, come abbiamo operato le donne incinte, ma come abbiamo operato dei bambini, ma anche per coloro che non fumano, i quali meritano di essere tutelati. Quindi parliamo anche di un'iniziativa che insomma farà prevenzione sicuramente e che soprattutto andrà a colpire chi magari oggi in maniera un po' troppo superficiale ha permesso anche agli adolescenti di comprarsi le sigarette. Fantastico, è comunque una buona notizia che ci sia più attenzione in questo problema e quindi occhio a fumare in auto solo se siete da soli e se proprio non riuscite a farne a meno. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, che ritroveremo prossimamente in un nuovo appuntamento. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.